Roots to Roulette è una campagna, un'iniziativa che è nata, l'idea è nata immediatamente dopo l'incendio del campo di Lipa del 23 dicembre scorso e che riunisce una serie di organizzazioni, di associazioni, singoli, in realtà di base, che hanno deciso appunto di non restare a guardare di fronte all'ennesima emergenza, che è appunto quella che stanno vivendo i migranti in Bosnia, in realtà non da ora ma già da diversi anni, però per fortuna adesso diciamo la situazione è un po' sotto gli occhi, sotto i riflettori dei media, purtroppo per la sua tragicità. E questa campagna, diciamo, si pone due obiettivi. Uno, più immediato, è quello di raccogliere fondi da portare poi direttamente lì in Bosnia, per supportare il lavoro, insomma, delle associazioni e delle organizzazioni non governative che lavorano lì e danno supporto ai migranti. E l'altro obiettivo più generale, più complessivo, è quello appunto di tenere informati, insomma, la luce accesa, i riflettori accesi su non solo sulla rotta balcanica, che appunto insomma riguarda i migranti che si trovano in Bosnia, ma anche il tentativo di unire le due rotte, da qui anche il nome, il Roots Roulette, no? Tentativo di tenere unite in un discorso complessivo sia la rotta mediterranea che quella balcanica, perché noi pensiamo che con le dovute differenze ovviamente del caso, Libia, Tunisia, Bosnia oggi non siano poi del tutto così tanto diverse. Quello che subiscono i migranti in Libia non è diverso da quello che subiscono in Bosnia. Chiaramente sono delle differenze evidenti, ma il contesto, i problemi sono molto simili, e questo appunto dovuto a politiche migratorie italiane ed europee che si sono dimostrate fallimentari. Quindi l'idea di questa campagna è appunto sia portare aiuto materiale, ma anche poi portare avanti una critica a queste politiche migratorie. Che migrare oggi sembra essere diventata una scommessa, no? Per questo roulette. Esatto, il termine roulette appunto rimane al gioco, no? Alla scommessa, perché appunto per milioni di persone, che sia la rotta balcanica, quella mediterranea, quella atlantica addirittura, però oggi per milioni di persone migrare è una vera e propria scommessa, sulla propria vita, sulla vita dei propri cari. Si sa quando si parte, ma non si sa se e come si arriva a destinazione. Io vorrei farti una domanda anche più generale proprio sul tema delle migrazioni, su come a vostro avviso si possa risolvere ad esempio la situazione dei migranti bloccati in Bosnia, perché non può essere ovviamente solo lo Stato bosniaco che si rifiuta di trovare soluzioni, quello a intervenire. Chiaramente non può essere solo lo Stato bosniaco, che comunque va detto non ha gestito nel migliore dei modi la situazione, anzi molto spesso ha gestita come un problema di ordine pubblico e quindi diciamo con azioni più repressive che di vera e propria accoglienza. È chiaro che poi il problema è un problema che riguarda tutta l'Europa, basti pensare che la Croazia, paese membro dell'Unione Europea, respinge i migranti in maniera violenta, come ormai dimostrato da migliaia di denunce, con la polizia croata che picchia, respinge i migranti, quindi è un problema di Unione Europea. Chiaramente la soluzione non è una soluzione semplice, perché le migrazioni sono un fenomeno complesso e articolato. Di certo una soluzione immediata è quella di creare un sistema di accoglienza quantomeno umano come primo step, quindi evitare le scene, vedere le scene che abbiamo visto in queste settimane con persone che vivono senza servizi, senza nessun diritto, o sotto la neve a meno 20 gradi, questo dovrebbe essere il primo obiettivo di brevissimo termine. Più complessivamente è chiaro che è necessario creare dei corridoi umanitari, una gestione delle frontiere più permeabile, un sistema di accoglienza europeo più giusto e più equilibrato, che coinvolga tutti gli stati dell'Unione, chiaramente non solo quelli di frontiera. Come si fa a entrare in contatto con la vostra campagna? Dove trovare informazioni? Abbiamo una nostra email, che trovate comunque anche sulla pagina Facebook, dove trovate anche un manifesto che spiega in generale l'idea appunto della campagna. Quindi sulla pagina Facebook Roots Roulette trovate tutte le informazioni necessarie per contattarci, per aiutarci tramite la raccolta fondi. Ci sarà anche un IBAN, quindi tutte le informazioni saranno sulla pagina Facebook.